Parliamo di Roma e per farlo siamo al telefono con Daniela Preziosi, che è giornalista de Il Domani, che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora Daniela, saremo veloci perché ovviamente anche tu stai lavorando, la situazione di Roma è forse una di quelle più incerte. Ma sì, al momento abbiamo delle proiezioni finalmente, dopo tanto fare vedere exit poll un po' ubriachi. Le proiezioni insomma danno, li ho in questo momento di fronte a me, siamo a un confine del 12%, danno Michetti al 30%, un po' più su del 30%, Gualtieri al 27%, Virginia Raggi al 19%, al 18%, sopra di un pelino, proprio tre capelli di Carlo Calenda. Ci sono due sfide praticamente, una per il ballottaggio e una seconda, cioè quella tra Michetti e Gualtieri, e una seconda per il terzo posto, che però è determinante appunto per il ballottaggio successivo. E Virginia Raggi, diciamo, incredibilmente regge molto forte, molto più di quello che dicevano gli exit poll e i sondaggi, fino a che almeno li abbiamo potuti leggere, poi li leggevamo ma non li pubblicavamo, insomma. Quindi insomma non è ancora chiusa ovviamente la questione di chi andrà al ballottaggio né chi si aggiudicherà il terzo posto, insomma è ancora tutto aperto. No, sembrerebbe insomma, il ballottaggio sembrerebbe essere quello tra Michetti e Gualtieri, abbastanza, diciamo, il dato non è solido, però insomma abbastanza vicino, però bisognerà capire se il grande elettore, diciamo, del vincitore sarà Calenda, quindi con la sua idea di non allearsi per esempio con i 5 Stelle, oppure Raggi, noi sappiamo che Gualtieri ha detto che non farà apparentamenti e non ci saranno apparentamenti formali, però insomma qualcuno dovrà fare un gesto se vuole prendersi i voti di qualcun altro, quindi Raggi, sappiamo, tra Raggi e Gualtieri non corre buon sangue, molto migliore il rapporto tra Gualtieri e Conte, quindi questa cosa insomma si declinerà in qualche maniera. Insomma, non è facilissima, la vittoria del Partito Democratico è molto probabile al secondo turno, ma diciamo non è scontata, perché ci saranno da risolvere questi problemi che vengono dati da due candidati che inseguono ma che si piacciono molto bene. Insomma, al momento stanno intorno al 18% entrambi, che è un signor risultato. Certo, ecco, un'ultima battuta veloce, siamo ovviamente sempre nel campo delle speculazioni, però questa tenuta di Virginia Raggi potremmo considerarla anche un effetto Conte? Guarda, io non credo, devo dire la verità, io sono stata a uno dei comizi che Conte e Virginia Raggi hanno fatto insieme, era una specie di autoconvocata in una villa, in un posto non centralissimo, non periferico ma non centralissimo, come San Giovanni, e così, una roba fatta così all'improvviso ha convocato 600 persone, cosa che partiti del centro-sinistra ma anche del centro-destra se li sognano, uno di questo genere per un comizio volante. E sicuramente c'era anche la forza di Conte, però qui a Roma in particolare, siccome i rapporti tra Conte e Raggi sono formalmente buoni, ma nella sostanza sappiamo tutti che sono distanti, sono due idee di partito diverse, Virginia Raggi è assai più vicina di Battista, se anche ormai ha lasciato il movimento, quindi secondo me questa è una diciamo una vittoria molto di Raggi, ma certo una vittoria nel senso un'affermazione, non è certo una vittoria al momento sta al terzo posto o al quarto, ma certamente poi quando ci sarà da decidere chi è, cosa si fa al ballottaggio, Conte conterà. Voglio ricordare che ai comizi chiusura, collegato al telefono con Virginia Raggi sopra il palco, già Grillo sostanzialmente ha prefigurato il voto al ballottaggio del candidato del centro-sinistra, cosa che naturalmente Raggi non ha preso per niente bene. Insomma, il gruppo dirigente ormai ha lasciato abbastanza sola la sindaca, che però evidentemente ha un suo seguito in città. Ai sondaggi, probabilmente questi, lo dicevano anche i sondaggisti, però se li si interrogava a fondo, chi veniva, sono persone che non volevano dire che votavano Raggi, ma effettivamente poi evidentemente lo hanno fatto. È un fenomeno che andrà, diciamo, su cui il centro-sinistra, se dovesse andare a governare la città, dovrà riflettere con grande attenzione. E la Raggi dunque è destinata ad entrare nel gruppo dirigente dei 5 Stelle, come si è molto narrato nei giorni scorsi? O altrimenti a fare una rottura dolorosa. Raggi ha questo suo seguito, quindi non è che può essere, diciamo, lasciata andare via come Di Battista, quindi faranno di tutto per non regalarla, diciamo così, a un'altra ipotesi, un altro Movimento 5 Stelle o di un'altra, diciamo, di una formazione alternativa e più radicale che nasca dal solco, dalla radice appunto dei 5 Stelle. Quindi Conte non si può permettere di lasciare andare via un personaggio che comunque ha una sua popolarità. Sembra incredibile, perché io sono affacciato dalla finestra della mia redazione e non è che si vede da quassù, e siamo pure al centro, una città pulita, efficiente, eccetera, però evidentemente c'è un pezzo di cittadinanza che è stata convinta. Adesso mi è arrivato appena adesso un risultato parzialissimo di un seggio in una delle periferie, San Basilio, delle periferie contese, dove ha chiuso anche Gualtieri, proprio perché era una delle periferie contese. Bene, Michetti è molto alto, ma la Raggi è molto alta, molto più del candidato di centrosinistra Gualtieri. È naturalmente un risultato parzialissimo, però evidentemente ci sono interi pezzi della città che ancora credono in questa sindaca.